Abbiamo studiato le varie regole che riguardano la Amidah e ora vediamo cosa si svolge nella Tefilah dopo la Amidah nei giorni normali. Allora l'Alakha dice così: Le'achar HaShemoneh Esrei, dopo i 18, cioè dopo la Amidah, Omrim si dice Tachanun, Be'in Nefilat HaPaim, si dice la supplica. La Tachanun, con la Nefilat HaPaim, cioè la testa reclinata appoggiata sul braccio in quando si recita uno dei brani, perché dopo la Amidah del Shacharit e anche della Mincha si fa una supplica, un Tachanun, dei Tachanunim, delle suppliche dove si implora il perdono per i nostri peccati, per le nostre trasgressioni e la parte centrale di questa richiesta, di questa supplica, è un salmo, che è il salmo 6, vero? Scusate, non è il salmo 6, è il salmo 25, Le David Hashem Melech Hanafshi Esa, che è quello sul quale si fa appunto la Nefilata Paim, che letteralmente vuol dire caduta sul viso, perché si usava recitarla col viso a terra, come una totale supplica. Però la pratica si è modificata nel tempo, non si sta col viso a terra, ma si sta col viso, diciamo, con la fronte poggiata sul braccio, con il braccio inclinato così verso sotto e la fronte poggiata sul braccio. Vedo diverse usanze che non credo siano corrette, come mettere la mano sulla testa o altre cose. Va fatto così, la fronte poggiata sul braccio. Sinistro o Adesso destro. vediamo. Ok? Ora vediamo quale braccio. Comma 2, Seif Bet. Beshacharit, quando si fa la tefila la mattina, visto che sul sinistro normalmente ci sono i tefilin, Kevan sheyesh tefilin mismolo, allora ci si poggia sulla destra, si china il capo sulla notin al tzad yamin, mishum kavod a tefilin, come segno di rispetto ai tefilin, ci si poggia dalla parte sul braccio destro. Mentre invece a mincha, ube mincha, si torna al lato sinistro e si fa il contrario. Ube mincha notin alzad semol. Ovviamente i mancini fanno rovescio, Il no? mancino fa il rovescio, Dipende dove esattamente. c'è il filino. Esatto. O qui o là. Ora, quando si fa la Nefilata Paim, non si fa stando in piedi, ma stando seduti. Al comma 3, terzo Seif, Nefilat Apaim. Questa tefilà qui va fatta, Yeshliyot Meyushav, bisogna stare seduti. Ma, Ach Bisheata Dechak, in un momento di, in caso di necessità, letteralmente momento di difficoltà, vuol dire se è difficile o impossibile stare seduti, allora si può anche stare in piedi. Yacholiyot Meomad. Poi, dopo che si conclude il Tachanun, Leachar Tachanun, questa parte del Tachanun, Omerim si dice Vanachnu lo nedah, cioè il brano che è intitolato Vanachnu lo nedah ma naaseh ki alecha einenu, e cioè noi non sappiamo ciò che accade o ciò che facciamo, perché ciò che faremo, perché a te i nostri occhi sono rivolti, ki alecha einenu. Questo è l'ultimo brano con il quale si conclude il Tachanun, sia a Mincha che a Shacharit. Ed è, l'Alakha dice, è opportuno dirlo da seduti. Viesh leomro bishiva. Si usa dire almeno l'inizio da seduti e poi alzarsi mentre, dopo che si è iniziato a recitarlo. Ve'achar kach omdim ve'omrim manase. Vanachnu lo nedah. Manase lo diciamo già in piedi, la seconda parte della frase. Iniziamo il brano ancora da seduti da prima e ci alziamo durante la prima frase di questo brano. Ora, c'è un vincolo per ciò che riguarda la Nefilata Paim, che non per ciò che riguarda recitarlo, ma per ciò che riguarda poggiare, chinarsi con la testa sul braccio, quindi la nefilata pain vera e propria, viene fatta solo laddove si trova un sefer. Vediamo l'alaha. En nefilata pain, kiim bemakom sheyesham sefer Torah. Non si fa la nefilata pain, non la si esegue, se non che ci si trova in un luogo in cui c'è un sefer Torah. Aval, bemakom she'en sefer Torah, she'en sham, in un luogo in cui non vi è un sefer Torah, afal pi she'esham she'ar sifrei kodesh, anche se ci sono altri libri di Torah, comunque, en noflin al penehem, non si assume la posizione della nefilata paim, non che si omette un brano, si recita tutto, ma non si assume la posizione sul braccio, e la omrim et amismor, si recita il salmo della nefilata paim, belin nefilata paim, senza cadere sul volto. Se non c'è un sefer, se ti trovi a casa a fare tefilà, non hai un sefer a casa. Che shemit pallelim be ezrat bet akneset, chi prega nell'atrio del tempio, per esempio, ed è aperto al tempio, upetach bet akneset patuach, e la porta del tempio è aperta, nechshav ki ilu haya sham sefer Torah, è considerato come se pregasse in un luogo in cui c'è un sefer Torah, e quindi fa la nefilata paim. O chi prega dietro il muro qua, fa la nefilata paim, perché è aperto al tempio, anche se è meglio stare dentro. 5. Che shemit pallelin bevet avel, quando si fa tefilà in una casa di un avel, cioè in una casa in cui si è di lutto, o bevet hamet, o nella casa del defunto, anche se non c'è chi è in lutto, afal pi she'en sham avel, en omrim tachanun, in quelle occasioni delle tefilot, dei 7 giorni di lutto, non si dice tachanun, shivat yemei avelut, afilu bemincha shel hayom ha-shevi'i, anche se si tratta della mincha del 7° giorno. Perché si dice questo? Perché normalmente il lutto dei 7 giorni conclude la mattina, perché vige la regola nel lutto che miktzat hayom kekulo, una parte del giorno è considerato come se fosse passato già tutto il giorno, quindi il lutto praticamente della non la mezzanotte, no, la vigilia. No, si aspetta la mattina del 7° giorno. La mattina. Sì, e dopo fatta la tefilà della mattina del 7° giorno, consideriamo che è finito già il 7° giorno di lutto, anche se effettivamente il 7° giorno ancora non è finito. Quindi, per questo dice, anche se la minchà del 7° giorno, in teoria il lutto è già stato finito la mattina, comunque tachanun non si dice nella casa di Avelut. Anche se alcuni usano che quando tornano a casa la dicono, però qui lui dice, si usa che anche tornando a casa non si dice tachanun, cioè se nel minyan non si è detto, non si dice proprio. Ok? Vino agin, shegam beshuvam levetam, anche qua, perché dice nella casa di Avelut non si dice, ma quando torno a casa mia recupero il tachanun. No, non si usa recuperare. E in am omrim, vim yesh avel bevet akneset, se invece capita che l'avel non ha fatto tefilà a casa propria, bensì è venuto a partecipare alla tefilà nel tempio, come spesso accade, allora, en hatzibur nigrarin acharav, il pubblico non si adegua a lui, e non omettono il tachanun, solo nella casa dell'avel, ma se l'avel viene al tempio si fa la tefila regolare, veomrim tachanun, e si dice il tachanun, solo che l'avel stesso, no. E la shaha avel no omer, il avel stesso non lo dice. Ma presente non è come il caso degli sposi, che gli sposi non fanno fare tachanun. Oh, adesso vediamo. In alcuni casi invece tutto il tempio non dice tachanun. Per esempio, andiamo al numero Vav 6. E nomrim tachanun bevet akneset sheyesh sham mila, dove avviene una milà, tu, anche se è tutto un tempio, non si dice il tachanun. Non solamente, anche se la milà stessa non avviene nel bet akneset, ma se prega nel bet akneset il padre del bambino che fa la milà quel giorno, oppure il sandak, quello che tiene il bambino durante la milà, oppure il mohel, quello che effettua la milà, anche se la milà è da un'altra parte, in quel tempio dove pregano uno di questi tre, non si dice Tachanun. O se a Balberit, o a Sandak, o a Mohel, mitpalelim sham, che pregano lì, af se a Milat, anche se la Mila stessa sarà fatta in un altro posto, nel Tempio non si dice Tachanun. Veim mitpalelim mincha. E se anche pregano mincha, bevet atinok, a casa del bambino che ha fatto la Mila. Kodem seudat berit, per esempio, dopo la Milà, prima di mettersi a tavola per la seudà della mitzvah, dicono, ok, orario, facciamo mincha, così non fanno minyan per mincha, oppure be'emza seudà, durante il pasto, dicono, ok, intanto facciamo mincha tra il primo e il secondo. Gamken en omrim, anche in quella situazione non si dice tachanun. Perché si è nel contesto della Milà. Della Milà, esattamente. Aval im mitpalelim leachar birkat amazon, ma se comunque si è già conclusa la seudat mitzvah, il pasto, e si è fatta la birkat amazon, e poi si è fatto mincha, allora si dice tachnun, è come se si fosse già concluso il contesto della milà con la seudat e la birkat amazon conclusa, e ora ci mettiamo a fare mincha anche a casa della milà, si dice tachnun. A quel punto è già conclusa la festa. Ah, la Amazon che chiude il cerchio. Esatto. Chiude la parentesi. Chiude tutta la simcha, diciamo. Però c'è un'eccezione. Achbal Brit va Sandak va Mohel, queste tre persone, cioè padre, il Sandak e il Mohel, continuano a non dire Tachanun tutto quel giorno, anche a Mincha, a casa dopo la Birkat Amazon. Il Minyan dice Tachanun e loro personalmente non lo dicono. Lo Yomeru, non lo dicono, afleachar birkat amazon, anche dopo che è stata conclusa la birkat amazon, mishum de yom tov shelahem hu, perché per loro è considerato un giorno festivo. Anche il bambino. Anche il bambino non deve dire tachanun in quel caso. Non deve strillare. Inoltre, altra situazione in cui si evita, si omette il tachanun, vechen, inoltre, en omerim bevetta kneset. Sheyesham Khatan, laddove in un tempio in cui si trova uno sposo come si definisce, non chi ha definito la data che tra un anno si sposa, ma uno sposo vuol dire che si è sposato o si sposa quel giorno e per i sette giorni successivi, kol shivati mei mishteshelo, tutti i sette giorni del suo mishte, si chiama la settimana della sua festività, non si dice tachanun quando lui è presente al tempio. Im hachatan haya bachur o hakala betula. Questo nel caso in cui è uno sposo che non si è mai sposato prima, o che la kala è una kala, una sposa che non si è mai sposata prima. Però, se entrambi sono stati già sposati prima, in precedenti matrimoni, aval alman, per esempio, un vedovo, shenasa almana, che sposa una vedova, allora, in quel caso, per tre giorni non si dice Tachanun, non per sette giorni. La loro simcha è considerata per tre giorni. En lorak shlosha yamim, il loro ufficiale periodo di simcha dura tre giorni, e quindi anche il Tachanun si evita solo per tre giorni. Ve'achar kach omrim, e dopo si riprende a dire. Ubeyom achupa, nel giorno della chupa stessa, be'shacharit omrim, alla mattina shacharit si dice Tachanun, ma a Mincha, che è più vicino all'orario della Chuppah, allora non si dice. O be Mincha, shu samuch la Chuppah, en omerim. Ma su questo ci sono diverse opinioni, e effettivamente si usa che anche a Shacharit non si dice Tachanun, quando c'è la presenza dello sposo che si sposa quel giorno. Altre occasioni in cui si omette il Tachanun, vediamo al comma 8, Chet. En omrim Tachanun, non si recita il Tachanun, nelle seguenti occasioni. Lo be Rosh Chodesh, come oggi, che è Rosh Chodesh, non si dice Tachanun. Ve lo be Tet Vav be Av, il 15 di Av, non si dice Tachanun. Ve lo be Tet Vav be Shvat, il 15 di Shevat, Rosh Hashanah degli alberi, non si dice Tachanun. Ve lo be Chanukah, tutti i 8 giorni di Chanukah non si dice Tachanun. Ve lo be Purim Gadol, Shnei Yamim, e non nel Purim grande. Cos'è il Purim grande? Quando ci sono due mesi di Adar, allora il secondo Purim è quello grande, cioè quello in cui si festeggia davvero Purim, per due giorni, il 14 e il 15 di Adar, Purim e Shushan Purim, Purim Shushan. Ma anche nel primo mese di Adar, se fosse un anno con due mesi di Adar, nella stessa data, anche se non è Purim, però si chiama Purim Katan, anche nel piccolo Purim, cioè il 14 di Adar e il 15 di Adar del primo mese di Adar, anche lì non si dice Tachanun. Velobbe Purim Katan, Beti Amim, due giorni. Prego. Ma non si dice né Purim né Purim Shushan, ma lo stesso per Purim Shushan non lo dice, nessuno lo dice o solo chi è nella nessuno lo dice. Nella zona, nella nessuno città lo dice. Dove... nessuno lo dice. Il Tachanun non si dice entrambi i giorni dappertutto. Velobbe Lag BaOmer, prossima occasione per noi, dopo questo Rosh Chodesh che non si dice Tachanun, è Lag BaOmer. Velobbe Chol Chodesh Nisan, l'intero mese di Nisan appena concluso, non si dice Tachanun. Velobbe Tisha B'Av, il giorno di Tisha B'Av non si dice Tachanun. Velobbe Yamim Sheben Yom HaKippurim Le Sukkot, inoltre i giorni tra Kippur e Sukkot non si dice Tachanun. Velobbe Rosh Chodesh Sivan Ad Le'achar Yisru Chag Shavuot, inoltre da quando si festeggia Rosh Chodesh del mese di Sivan, che non è questo ma il prossimo, quello in cui il 6 di Sivan c'è la festa di Shavuot, allora non si dice Tachanun da Rosh Chodesh Sivan fino al giorno successivo alla festa di Shavuot, Iseru Chag, il giorno che è dopo la festività, nelle tre festività si chiama Iseru Chag, preso dalla Hallel che abbiamo cantato, Iseru Chag Ba'avotim Ad Karnot HaMizbeach, legate la festa, cioè bisogna legare l'ultimo giorno della festa alla festa stessa. Anche quello considerato semifestivo non si dice Tachanun. In alcune usanze non si dice Tachanun fino al 12 di Sivan, non solamente fino a dopo il giorno successivo a Shavuot. Velobe Yisru Chag de Sukkot, e anche non si dice nel giorno dopo la festa di Sukkot, sempre Yisru Chag. Ok? In tutte queste occasioni in cui non si dice Tachanun, si omette il Tachanun già dalla Mincha del giorno precedente. Vuol dire, se per esempio lunedì è Rosh Chodesh, domenica a Mincha, la vigilia, già non si dice Tachanun. Così come per il sabato è già da Mincha di venerdì. Bravissimo. Come venerdì sera e Shabbat, già a Mincha di venerdì non si dice Tachanun. A questa regola ci sono due eccezioni. Mincha prima di Kippur e Mincha prima di Rosh Hashanah. Aval be'erev Rosh Hashanah o be'erev Yom HaKippurim, omrim be'mincha shlifnehem. Si dice Tachanun, anche se credo che ci sono diverse usanze su questo. Uberev Rosh Hashanah omrim gam selichot la'achar kach en omrim. La vigilia di Rosh Hashanah si dice il Tachanun anche nelle selichot, però dopo non si recita più. Sì? Prego. Tutte queste occasioni in cui non si dice Tachanun. Sì. Occhio, magari sono tutte occasioni perché è festa, è occasione diversa. Insomma, contrari al concetto. Sì, sì. E per Tisha B'Av è solo perché ce n'è già abbastanza di specifiche di Tisha B'Av? No. Eh? Tisha B'Av è una cosa... Aspettavo che qualcuno chiedesse questa domanda. Io, infatti, una cosa, però... Che cosa? No, pure quello del 17 di Tammuz. 17 di Tammuz si dice Tammuz? Non dovrebbe, visto che non si dice... Comunque io ho pensato dal 17 di Tammuz al Tisha B'Av, ci sono quei 10 giorni, cioè quel periodo che è di lutto, è un periodo di lutto, quindi se il concetto vale che in alcune, allora magari non andrebbe detto, no. Tachanun si dice in situazioni normali e anche in situazioni in cui si vuole ricordare l'espiazione dei propri peccati. Quindi è giusto che si dica nei digiuni, soprattutto i digiuni sono proprio giorni di suppliche, giorni yemei razon, momenti momenti propizi di volontà divina per risvegliare noi e noi risvegliare dall'alto il perdono, eccetera. Quindi è normale che si dica il Tachanun in giorni di questo tipo. L'anomalia è in Tisha B'Av, che in teoria è il giorno di lutto più importante, e che non si dice Tachanun. Allora c'è appunto il rapporto tra Tisha B'Av come giorno di lutto grave e la casa di Avelut, nella quale non si dice Tachanun, e quindi c'è questo rapporto, ma c'è anche una cosa interessante, che c'è scritto del Tisha B'Av nella Megillah di Eicha, che è la Megillah delle Lamentazioni che si recita a Tisha B'Av, Kara alai Moed, si riferisce al giorno di Tisha B'Av con il nome, con il termine Moed. Ovviamente Tisha B'Av non è una festa, però viene chiamato Moed, e legato a questo termine qui è anche alluso questo fatto che non si appoggia a questa allusione il fatto che non si dice Tachanun in quel giorno. In che senso è Moed? Non è Moed, chiaramente. È un potenziale Moed, in quanto c'è scritto che quando è stato distrutto il Beit HaMikdash è nato anche il Mashiach. Per dire che questa è non una cosa finalizzata in questa maniera, ma finalizzata a una prossima redenzione ancora più importante, ancora più duratura di quella che era prima. E quindi si chiama Kara Alai Moed, e quando vedremo le halachot di Tisha B'Av vedremo che ci sono alcune halachot legate a questo aspetto qui, cosiddetto Moed, tra virgolette, di Tisha B'Av. Quindi non si dice, diciamo, per questo chiamiamolo bagliore di positivi... di... Ah, come ho detto prima, sì, c'è anche il fatto del lutto. Sì, sì. In una casa di lutto non si dice, e noi siamo tutti di lutto, almeno fino alla mezzogiorno di Tisha B'Av, ci si, il comportamento è quasi uguale al comportamento di una casa di avelut. Quindi c'è anche questo. E poi c'è questo... Seif Tet, comma 9, Basheni u Bachamishi... I giorni giovedì e lunedì di ogni settimana sono considerati Yemei Ratzon, giorni propizi, momenti propizi. Perché? Chi be'arbaim yom shel kabbalat luchot shniot, quando Moshe è salito per la seconda volta sul monte Sinai, per ricevere la seconda volta, non è salito la terza volta, per ricevere la seconda volta le tavole della legge, che è sceso a Era Kippur, allora... I giorni della settimana in cui è salito ed è sceso, Alla Moshe Rabbeinu Biyom Hamishi, è salito il giorno giovedì, Viyarad Biyom Sheni, e il giorno che scese fu il giorno di lunedì. Quindi, visto che questi due giorni della settimana sono collegati a questo perdono, a questo momento propizio che HaKadosh Baruch Hu ha perdonato per il vitello d'oro ed ha dato a Moshe Rabbeinu per dare a noi la seconda volta le tavole, le Luchot HaBerit, allora sono considerati Yemei Ratzon, giorni di momento propizio di volontà divina. Lachen marbim bahem tachanunim. Per questo facciamo ancora un aumento alle suppliche ai tachanunim. Veomrim kodem tachanun, e prima del tachanun classico aggiungiamo veurachum, cioè aggiungiamo un brano, in alcuni riti veurachum, anche in rito romano, ma è preceduto da un altro brano. Veomerimo tome omade, lo si dice stando in piedi. Vezarich le omrobe kavana, ed è bene, bisogna dirlo con concentrazione, uvi metinute, senza fretta, derech tachanunim, proprio come una supplica. Ubayamim she enomrim tachanun, ma se il lunedì o il giovedì capitasse in un giorno, che abbiamo visto prima quali sono, i giorni in cui non si dice tachanun, allora anche questo brano in più non si dice. E non rimotò, come oggi che era Rosh Chodesh, non si dice Tachanun, anche se giovedì non abbiamo detto tutta quella parte. Nello svolgere la tefilà, nello svolgimento della tefilà, Leachar Tachanun, dopo aver detto il Tachanun, Omerim si dice Chatzi Kadish, si dice il mezzo Kadish, cioè Kadish fino da Amiran Be'almavi Meruamen, Ubesheni Ubachamishi, Omerim Keller Chapaim, questo non credo ci sia nel rito romano, Keller Chapaim Meomad, Vain le Kamatziman Kafesiv Bet Matai Nomrimoto, c'è un'ulteriore preghiera che si dice in alcuni riti, ma che si omette in alcuni giorni. E con questo abbiamo concluso il capitolo 22. Dopodiché vedremo il capitolo che tratta cosa vedremo? Le regole della lettura del Sefer, e poi vedremo le regole della Ashrei, Yoshevetecha, o Valezione, la conclusione della Tefilah. Buona giornata a tutti!